Gli speciali di Radio 24. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Liminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo dove il ministro Romita conte per radio la promozione sede ufficiale. Posseggono gli scrutini 34. Dunque l'Italia divenne una repubblica. 25 milioni di persone andarono alle urne quel 2 e 3 giugno del 46, fra cui per la prima volta milioni di donne che finalmente avevano conquistato il diritto di voto. L'89% degli aventi diritto si recò alle urne, percentuali che oggi fanno impallidire. Lo scrutinio andò avanti per giorni, fino a che ci fu l'annuncio. Il 54,3% dei votanti, armato di penna e scheda, scrisse il futuro dell'Italia che sarebbe venuta. E nacque la Repubblica Italiana. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Quelle giornate straordinarie vengono ricordate ogni anno il 2 giugno con la tradizionale deposizione della corona d'alloro all'altare della patria e una parata militare lungo i fori imperiali a Roma. Un rituale che per i più giovani sta perdendo di anno in anno, lentamente, di significato. Una festa, quella del 2 giugno, che ci regala bellissimi ponti, un giorno in più di vacanza a scuola. Soprattutto per i giovani sta diventando questo la festa del 2 giugno. Ma vale la pena ricordare che a quegli italiani del 46 che dobbiamo quello che siamo oggi nel bene e nel male, quello che sono i ragazzi oggi, ai quali naturalmente ora sembra tutto normale, una vita politica che fa acqua da tutte le parti, ma in cui comunque sono garantiti i diritti democratici e sono scritti nero su bianco nella Costituzione i valori più alti del nostro vivere civile. E questi chi sono? Paoli, non hai mai visto i corazzieri? Ma non erano le guardie del re? Io adesso sono del Presidente della Repubblica. Ah, ho capito, questo è il Quirinale. Prima ci abitava il re, adesso ci abita lui. È rimasto tutto uguale. Ah, Paoli, se sei venuto a Roma per prendere in giro, ti rimando subito a Sulmona da tuo padre, eh? E proprio dai giovani vogliamo ripartire dunque in questo speciale in cui vi offriamo i ritratti di 4 ragazzi del 99. Sono quelli che quest'anno compiono 18 anni e conquistano quel diritto di voto che oggi sembra una cosa ovvia, ma che soprattutto per le ragazze è solo un diritto recente. Repubblica, 12.182.855 voti. Monarchia, 10.362.709 voti. Mancano ancora i risultati di poco più di un migliaio di sezioni. Ma se anche arrivassero soltanto voti monarchici, la Repubblica avrebbe vinto ugualmente. Perché i ragazzi del 99? Perché sono quelli che portano la definizione di ben più famosi ragazzi del 99. Quelli che furono chiamati alle armi per ultimi per andare al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, mandati al macello e strappati alle famiglie, agli studi, al lavoro della terra, a cui molti non tornarono mai più. Questi ragazzi non vanno più in guerra, ma le loro piccole, grandi battaglie si consumano nelle trincee dei banchi di scuola, a casa. E allora Radio 24 ha deciso di raccontarveli i ragazzi del 99 che quest'anno diventano grandi in un programma che andrà in onda quest'estate ma di cui oggi vi offriamo un assaggio. 4 ritratti di ragazzi straordinariamente normali. Ecco oggi il primo. I ragazzi del 99. Anzi la prima, perché qui con noi c'è Giada Morello. Ciao Giada. Ciao a tutti. Giada è venuta a trovarci da Como, frequenta il 4° anno del liceo classico. Cominciamo proprio dalla tua pagina Facebook, che mi sono divertita a spiare in questi giorni per capire un po' di te prima che ci incontrassimo. 1380 amici, su quanti social sei presente? 3. Tra le foto che pubblichi appunto su Facebook ce ne sono molte che hanno i colori brasiliani e anche molti dei tuoi amici sono brasiliani. Ci racconti perché? Perché io sono partita per 6 mesi, ho fatto un'esperienza all'estero. I famosi 6 mesi all'estero. Esatto. Con intercultura. Sono stata via 6 mesi e sono stata in Brasile, ho conosciuto tantissime persone ed è stata veramente un'esperienza unica che io consiglio a tutti. Perché ecco, che cosa ti ha regalato questa esperienza, questo incontro anche con culture diverse, differenti, con persone che hanno modi di vivere molto differenti? Cosa allora, ti hanno dato? Innanzitutto mi ha regalato mille emozioni, esperienze che mai nella vita fino ad ora avevo provato. Qual è l'esperienza più bella che hai fatto? Raccontacela. L'esperienza più bella che ho fatto? Allora vabbè, innanzitutto partire, perché il solo partire per me è un'esperienza. Ma l'esperienza più bella che ho fatto è stata un viaggio con altri ragazzi, sempre di intercultura, provenienti da tutto il mondo. E è stato bello stare una settimana insieme e scoprire un paese che nessuno di noi conosceva. Che paese era? Era Corumbá, Pantanal. Faceva parte dell'interiore del Brasile. Mm-hmm. E abbiamo visto posti che mai nella vita nessuno di noi aveva natura. Visto. Natura allo stato puro, 100% allo stato puro. Ed è stata un'esperienza emozionante. Sì. Già il fatto di partire è di per sé un'esperienza. Avevi un po' paura prima di partire? Sì, tantissimo. Immagino. Tantissimo. Ci hai pensato un po' su prima di fare questo passo? È un passo importante, bisogna avere coraggio. Bisogna pensare alle cose positive che si possono provare e non tutte le paure che dobbiamo affrontare una volta arrivati nel paese. E pensando in questo modo, quindi essendo positivi, tutto si affronta. Esatto, tutto si affronta al meglio soprattutto. Chi è che ti ha sostenuto in questa scelta? Allora, in primis la mia famiglia, perché è stata una mia scelta e loro l'hanno appoggiata fin dal primo momento. Non ti hanno detto attenta Giada, che no, poi sei mesi lontana, potresti avere dei problemi? No, mi hanno detto se è una tua scelta e tu lo vuoi veramente fare, vai. Vai. Sì. La scuola come l'ha presa? La scuola sono stata fortunata perché l'ha presa molto bene e poi facendo i 6 mesi diciamo che non ho perso tantissimo. E sono riuscita quindi al mio ritorno a recuperare. Gli insegnanti non ti hanno guardato male, no, quando sei tornata? Anzi. Ti hanno trovato cresciuta? Sì, alcuni professori mi hanno proprio detto che mi hanno trovato diversa al mio ritorno. E tu senti diversa? Sì, in parte sì. Per esempio il non dare tutto per scontato, ma soffermarsi sulle cose che si hanno e sul valore il valore che si dà a queste cose. È stata dura stare 6 mesi senza la tua famiglia? Sì. Fibrillazione ventricolare. Andiamo con la rianimazione, una fiala di adrenalina e carica 360. Subito, carica, libera. Vuoi fare il medico? Sì. Ecco perché hai scelto questa serie TV. E quindi farai medicina, il test e ti vedi già col camice? E diciamo di sì, speriamo di sì. Ma hai paura del futuro? Perché insomma si parla tantissimo, immagino se ne parlerà anche nella tua famiglia, di disoccupazione giovanile, di giovani che non trovano lavoro, che si devono accontentare di lavori mal pagati. Ti fa paura il tuo futuro? Assolutamente sì, perché nulla è certo in questo periodo e quindi anche il nostro futuro, il futuro della mia generazione, non sa a cosa andrà incontro e questo fa un po' paura perché siamo nel dubbio. Quindi con i tuoi compagni parlate di questa cosa, sì, vi fa paura sì, il futuro? Sì. E scegliete l'università anche forse pensando davvero a quelle carriere che danno maggiori possibilità di lavoro? Esatto, siete influenzati da siamo questo. Molto influenzati. Più che quello che vi appassiona, quello che vi darà anche un lavoro? E a volte si guarda anche quello, perché la passione a volte non basta, ma bisogna anche cercare di conciliarla. Esatto. Sì. Con la realtà. Che fai nel tempo libero? Allora, mi piace uscire con gli amici e poi insegnare pattinaggio su ghiaccio, perché ho pattinato su ghiaccio per 10 anni a livello agonistico. Bellissima cosa, sì. E la passione è rimasta e quindi ho deciso appunto di insegnare ai bambini. Trovi anche il tempo per insegnare ai bambini. Sabato sera che fai? Si esce con gli amici. Dove vai? Allora, dipende dalle serate, o si sta in giro in centro, o si va a casa di qualcuno, o a volte si va anche in discoteca e ci si svaga un pochino. A che ora devi rientrare? Alle 2. Vabbè dai, ti è andata anche bene. Sì, sì. Quindi adesso che sei maggiorenne non dici mamma, papà, ritorno quando voglio. Comunque ci ho provato, però non ancora è andata tanto bene. Non benissimo. Una figura di riferimento, il nome di qualcuno che ti ha fatto dire vorrei diventare così? Si può dire la prima presidentessa che salì al potere nel Regno Unito. Wow. Margaret Thatcher. Sì. Perché io penso abbia abbia avuto un coraggio assurdo, perché fu appunto la prima donna a salire al potere e nonostante ciò iniziò un cammino per aprire nuovi orizzonti al Regno Unito. Ma ti piace il fatto che lei sia riuscita come esatto, donna sì, a diventare primo ministro, sì, più che la politica esatto, in sé? Sì, proprio questo. I nostri ragazzi del 99, quali sono i loro valori, cosa sognano, come dipingono il loro futuro 71 anni dopo la nascita della Repubblica, di cui oggi si celebra la ricorrenza? Giada, l'abbiamo sentito, ha voluto provare l'esperienza di un lungo periodo all'estero. C'è chi invece ancora non si sente di spiccare il volo. E allora la sua piccola trincea è la scuola, dove ha scelto di diventare rappresentante d'istituto. Allora, eccolo qua il nostro ragazzo del 99 di oggi, si chiama Andrea Recupero ed è venuto a trovarci da Brindisi. Studia all'Ettore Majorana di Brindisi, appunto, che è un istituto tecnico, settore tecnologico e anche un liceo delle scienze applicate. Un bellissimo istituto con un dirigente scolastico molto frizzante che salutiamo al di là del vetro che ci sta guardando. Io sono stato eletto rappresentante di istituto, quest'anno sono rappresentante degli studenti del consiglio di istituto, il che comporta non solo la presenza ai consigli di istituto e alle riunioni del consiglio di istituto, ma anche una partecipazione attiva nel realizzare tutte quelle che sono le attività didattiche ed extra didattiche per i ragazzi all'interno della scuola. Di che cosa sei fiero fra le cose che hai fatto fino adesso come rappresentante di istituto? Su che cosa sei intervenuto? A Brindisi abbiamo, al Majorana di Brindisi abbiamo il tradizionale spettacolo che facciamo sotto il periodo natalizio, che vale come assemblea d'istituto, si chiama Majorana Show. Quest'anno ha riscosso veramente tanto successo, è uno spettacolo in cui i ragazzi che vogliono si iscrivono e mostrano ai propri compagni tutte quelle che sono le loro abilità e i loro talenti artistici, possiamo dire, dal ballo al canto, lo street art e i graffiti, qualsiasi forma di arte. Di arte. E hai collaborato come rappresentante d'istituto alla realizzazione? Sì, i rappresentanti d'istituto hanno, diciamo, il treno, il vagone portante. Motore. Il motore. Ti piace oppure ogni tanto subisci qualche critica? Perché insomma chi fa spesso viene criticato, eh? Non è un compito facile. Guarda, ti dirò, è successo per la prima volta nella storia del Majorana. Quest'anno hanno realizzato una vera e propria pagina satirica e per quanto riguarda la politica del Majorana. Hanno cominciato facendo dei fumetti molto simpatici, devo dire, non cattivi. Ti hanno preso in giro, no? Mi hanno sottolineato alcuni miei modi di fare. Tipo? Tipo, faccio presente, hanno fatto un ritaglio con i giornali, con le lettere dei giornali, hanno scritto l'abito non fa il monaco, premessa. E sono un ragazzo che veste abbastanza elegante. Ho visto dalla tua pagina Facebook, sei quasi sempre in giacca, spesso anche in cravatta, che sì, non mi sarei aspettato da un ragazzo della tua età, in effetti. Molto serioso, eh? Ma di fatto ormai questo è diventato l'essere alternativi piuttosto che il ragazzo che magari veste un po' più trasandato. Invece esatto, a te piace essere così elegante. E dicevo, in merito a questo abbiamo trovato scritto appeso sui muri della scuola: l'abito non fa il monaco, ma panciotto e cravattino fanno il buon rappresentante. Vabbè, cosa carina, dai, non sì, ti sei offeso, no, naturalmente. Assolutamente. Ecco, com'è il rapporto con gli altri studenti? Perché appunto quando si prendono delle iniziative e quindi ci si assume anche delle responsabilità non a volte poco. Si è soggetti a delle critiche, a volte anche pesanti. Come è successo? Tutti coloro che si danno da fare, si muovono nella comunità, è chiaro, non possono chiaramente piacere a tutti. E ci sono alcuni ragazzi che criticano il mio modo di fare, altri ragazzi che lo elogiano, ma comunque l'importante è mettersi in gioco e fare delle critiche strumento di crescita, come questo vale per tutto poi, no? Qual è la cosa che ti dà più fastidio dei tuoi genitori? Una cosa che ti dicono, una cosa che pretenderebbero che tu facessi e che non hai voglia il di fare? Il fatto che alcune volte non... forse non riescono a capire, non so se è il termine adatto, il mio modo di vedere le cose e il mio modo di fare più che altro. Cioè? Cos'è che criticano? Cos'è che non gli piace di te? Ma ad esempio il fatto, parlavamo all'inizio, io vesto spesso abbastanza elegante, ma questo è solo un esempio, mia madre vorrebbe che vestissi più giovanile. Viaggi? Viaggio, poco fuori dall'Italia, molto in Italia. L'ultimo viaggio che hai fatto? L'ultimo viaggio che ho fatto sono stato a Roma. Hotel, Airbnb, ostello? Hotel. Hotel, quindi anche su questo sei molto tradizionale. Conosci le lingue? Io sono tradizionale e tradizionalista su praticamente tutto. Va benissimo. Un po' atipico per i ragazzi della mia età. Un po' atipico. E come ti guardano gli altri ragazzi della tua età su questo tuo aspetto? Ma a molti mi stimano. Gran parte delle persone con cui vengo a contatto, dei ragazzi con cui miei coetanei con cui vengo a contatto mi stimano, sì. Altri invece non condividono, ma poi ognuno è libero di... certo, però non sei mai stato isolato per questo tuo modo di vestire, per questo tuo modo di pensare, no. Perché ascolti Pooh. No, assolutamente, isolato mai, no. Ti sei fatto sempre comunque rispettare, se ben voluto dai ma tuoi sì amici. Anche perché alla fine io ho un carattere abbastanza solare, per cui in un modo o nell'altro sono... acchiappi la simpatia. Sì, amico comunque di tutti. Ok, senti, come passi il sabato sera? Sabato sera passeggiata, pizzeria, ristorante, drink, nanna. A che ora? Dipende, l'una e mezzo, le due. C'è un insegnante che ti piace in maniera particolare? Non voglio nome e cognome, ma un insegnante che ti sta aprendo la mente, che ti sta accendendo un po' di lampadine? Sì, è una mia insegnante di italiano del biennio, con cui sono rimasto molto, molto legato, sì. Che cosa ti ha dato in particolare rispetto ad altri insegnanti? Mi ha aiutato a capire quali sono, a trovare le priorità per la mia vita e il mio futuro, quello sì. E quali sono le tue priorità? Innanzitutto lo studio. Lo studio, perché al giorno d'oggi sappiamo tutti che trovare un lavoro è difficile, trovare un buon lavoro ancora di più, per cui lo studio è prima di tutto. Cosa vorresti fare dopo? Io dopo la scuola, anche se con la chimica non c'entra niente, a me piacerebbe prendere scienze politiche, poi continuare il percorso di studi a Roma e studiare per diventare dirigente e funzionario poi amministrativo. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme per lo speciale dedicato al 2 giugno. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui social network, la pubblicità digitale, le nuove app e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Gli speciali di Radio 24. Da oggi l'Italia è repubblicana. Oddio, la mamma. Che cosa? La mamma si sente male. La mamma? Vieni. Non piangere, papà, non tutto è perduto. Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re! E viva! C'è chi piange per la fine della monarchia, chi invece brinda. Il tavolo ritratto nel film Una vita difficile di Dino Risi è lo specchio esatto perfetto dell'Italia di quel 46 che ricordiamo oggi nella festa del 2 giugno. La Repubblica vince, ma con uno scarto modesto. A regalare la vittoria alla nuova Italia, soprattutto il Nord e in particolare le città del Nord. Queste dunque le radici della nostra democrazia e del nostro essere italiani. Un essere italiani che oggi non è appannaggio solo di chi ha avuto i nonni, i genitori, di chi è nato qui, ma anche di chi è arrivato in questo paese, magari da bambino, come è successo al nostro prossimo ragazzo del 99, anzi alla nostra ragazza del 99, Maria Oksana Baci. Ciao Maria. Salve. Maria Oksana Baci abita a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Sì. Frequenta l'Istituto Tecnico Eugenio Montale Relazioni Internazionali. Sì, al terzo anno. Al terzo anno. Anche per lei partiamo dalla sua vetrina, dalla sua pagina Facebook. Oksana, su quanti social sei presente? Attualmente due, Facebook e WhatsApp, se possiamo considerarlo un social. Poco. Sì. 1468 amici, sì, su Facebook, sono tanti. Sì, ma... diciamo che ci sono vari amici in parti del mondo. Esattamente, sì. Infatti dalla tua vetrina, io la chiamo la vostra vetrina Facebook perché insomma è il luogo dove mostrate quello che volete mostrare, salta subito all'occhio chi sei, perché i tuoi amici sono in molte parti del mondo, sì, e soprattutto ovviamente in Italia, perché hai tanti amici qui in Italia, ma anche Romania e Ucraina. Come mai? Ci racconti la tua storia brevemente? Io ho origini sia rumene che ucraine, in quanto la mamma è ucraina appunto e papà rumeno. Vivo qua da 10 anni, li faccio quest'anno a luglio. E quindi sei arrivata che avevi 8 anni. E i primi 8 anni della tua vita invece dov'eri? I primi 3 anni li ho passati con la mamma, perché papà era già venuto in Italia. In Ucraina quindi? No, in Romania. Uh-huh. In Timișoara. Uh-huh. Mentre i successivi 4 anni li ho passati in Ucraina con la zia, lontana quindi da mio fratello, che invece era con mia nonna, nel paese vicino. E lontana anche dai tuoi genitori? Sì. Perché nel frattempo i tuoi genitori erano partiti? Sì, papà a febbraio e la mamma a marzo. Quando tu avevi? 3 anni. 3 anni, quindi sei rimasta con i tuoi parenti, come spesso accade. Sì. E non è stato facile. Tu hai raccontato questa tua esperienza in un libro che si intitola Ho viaggiato fin qui, storie di giovani migranti. In questo libro della Erickson tu sei una delle autrici, no? Perché sì, insieme ad altri tuoi compagni di scuola dell'Eugenio Montale di Cinisello Balsamo avete, in arrivo da ogni parte del mondo, avete raccontato cosa è significato crescere senza genitori i primi anni di vita, poi ritrovarli quando sono ormai diventati quasi degli estranei. Mm-hmm. È stata dura tirare fuori la tua esperienza in molto, questi temi che sono stati molto raccolti nel libro. Sì. Avevo diciamo anche paura di dire tutta la verità, perché magari uno leggendo il libro poteva discriminarmi e magari non avere più l'idea su di me che aveva inizialmente. Cioè tu in Italia ti sei costruita una tua immagine. Sì, cioè diciamo non tutti sanno la verità. Mm-hmm. E la verità invece l'hai detta tutta, senza timidezze, nel tuo tema, nel libro, l'abbiamo letto ed è, insomma, racconti anche episodi difficili, immagino, forti, da tirare sì fuori. Cosa è significato per te scrivere questo tema, raccontare il tuo passato? Ci hai messo un po' oppure avevi voglia di farlo? No, diciamo, ci ho messo un po' per strutturare il tutto. Mentre l'ho scritto dovevo proprio confidare tantissima fiducia nel lettore, che poi l'avrebbe letto. È stato un po' liberatorio anche, sì, forse per te, finalmente l'hai buttato fuori? Sì. I primi anni, come dicevamo, sei stata da sola o comunque insomma con i parenti lontani dai con tuoi genitori. Mm-hmm. Com'è andata la tua infanzia? Molto bene, diciamo che rispetto ai giovani d'oggi sono contenta di essere cresciuta come sono cresciuta, perché diciamo quel giocare con la terra, vivere all'aperto è diverso di che stare come gli adolescenti d'oggi, ma anche quelli più piccoli, col telefono in mano dalla mattina alla sera. Cioè, sono contenta. Ovviamente sarei stata molto più contenta se ci fossero stati anche i miei genitori, però... Che hai ritrovato poi ad 8 anni, quando ti hanno portato insieme a tuo fratello qui in Italia. Ovviamente erano presenti con dei piccoli pensieri, diciamo, quasi mensilmente. Ti mandavano dei pacchi, no? Sì, che tu pacchi. Racconti che scartavi con grande gioia. Però che cosa erano diventati i tuoi genitori così lontani? Una specie di Babbo Natale che, cioè, ogni tanto sì, ti pensa, cioè, era tipo un Natale più frequente durante l'anno. Se ti dicessi di citarmi una persona che per te rappresenta, una persona che ammiri molto, chi è? La mamma. Che fai dopo la scuola? Che farai dopo la scuola? Ormai, insomma, 18 anni, si comincia a pensare anche un po' a quello che arriverà dopo, no? Hai detto, io mi voglio realizzare, sto studiando duramente perché mi voglio realizzare, ho fatto l'esperienza di scuola-lavoro che mi è piaciuta molto. Che tipo di lavoro vorresti fare e soprattutto dove? Dove ti immagini tu fra 10 anni, in Italia, in Romania? Beh, non sarebbe male avere un futuro qua, anzi, è il mio desiderio. Però diciamo che comunque casa è sempre lì dove sei nato, quindi magari mi ritirerei, diciamo, sugli ultimi della mia vita a casa. Quindi in Italia fino alla pensione, diciamo. Sì. E poi ti piacerebbe tornare a casa? Sì. E che tipo di lavoro? Ci hai già pensato? Beh, l'esperienza che ho avuto qua nell'azienda alla Cambiali mi è piaciuto. Però mi piacerebbe anche interagire con le lingue. Lavorare con le lingue. Sì. Oksana, la nuova italiana. Proseguiamo le nostre interviste ai ragazzi del 99, a cui dedicheremo quest'estate un intero programma. Da Oksana a Gloria, che vive nel culto del corpo. Allora, Gloria è di Milano, frequenta l'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Carlo Porta, ho detto giusto? Giustissimo. Bene, un ottimo istituto, tra l'altro, un ottimo istituto professionale milanese che sforna personale ottimamente qualificato in questo settore, quindi complimenti per la scelta. Grazie. Anche per te, partiamo da quello che ho visto sbirciando sulla tua pagina Facebook, 1433 amici, quanti social hai? 3, Facebook, Instagram e Skype. Tu, Gloria, sei innamorata del tuo corpo? Assolutamente sì, tantissimo. E ti prende tanto tempo curarti del tuo corpo? La maggior parte della giornata. Perché tu che cosa fai nel tuo tempo libero? E io mi alleno. Sei una bodybuilder, si dice così? Una bikini più che bodybuilder. Bikini? Però sì. Ci spieghi esattamente cosa sia? È uno sport simile a quello che è il bodybuilding, però insomma abbiamo una preparazione muscolare, diciamo, inferiore, però si tratta più o meno della stessa categoria. Quindi quante volte ti alleni a settimana? 5 ore? 5 volte per un paio d'ore. E quindi, insomma, 5 volte a settimana, praticamente quasi tutti i giorni tranne il fine settimana. Poi avrai anche le gare nel fine settimana. Esatto. Immagino. Sì, sì. Fai tante gare? E io ho iniziato quest'anno e devo dire ne ho già fatte 2. Tra poco avrò il campionato italiano, quindi questa cosa mi... Ti sta prendendo, ti sta assorbendo molto. Tu invece allo specchio come ti vedi, come ti senti? Beh, io diciamo che mi piaccio, cioè quando mi guardo allo specchio, no? Vedo una bella immagine di me stessa. Poi comunque in passato non ero proprio così, nel senso... Ero abbastanza, cioè ero diversa, no? E questo cambiamento che c'è stato in me, cioè mi piace veramente tanto. Ti rende orgogliosa. Sì, mi rende orgogliosa. È come volevi essere da piccolina, sognavi, esatto, di essere così, esatto. E hai raggiunto questo obiettivo. Sì, sì, sì. È un tuo obiettivo raggiunto questo. Da piccolina, io ho visto le foto, avevi un sorriso bellissimo che peraltro è lo stesso che hai adesso. Grazie. Quello è rimasto, non è cambiato per fortuna. Avevi delle belle guanciottine, eri molto morbida, molto carina. Ti dà fastidio rivedere quelle foto? Non ti piaci quando le rivedi? Quando ero più piccola mi dava molto fastidio riguardarle, infatti ne ho veramente poche, le ho eliminate quasi tutte. Non riuscivo cioè, apprezzare quello che ero prima. Quindi, ti vedevi brutta? Sì, non mi piacevo proprio, anche in confronto alle altre bambine, come erano le mie compagne. Tu come la immagini la tua vita con la tua futura famiglia? Come immagini la tua vita di coppia che sarà? Allora, io la immagino con molti figli, perché mi piace proprio l'immagine della famiglia. Quindi ti vedi mamma intanto? Sì, mi vedo mamma, assolutamente. E vabbè, spero di poter realizzare questa cosa. Certo, con quello. Naturalmente dei figli, una famiglia numerosa mi immagino nel mio futuro. E come immagini invece il tuo futuro lavorativo? Quindi hai detto ti vedi mamma e vorresti, sperando che tutto vada bene, vorresti diventare mamma, però hai già deciso cosa fare dopo la scuola? Come ti vedi da grande? Quale professione ti piacerebbe fare? Io vorrei fare la nutrizionista, quindi suppongo di continuare gli studi facendo scienza dell'alimentazione. Che comunque quindi anche... è conseguente anche a quello che stai facendo, perché esatto. Il tuo studio di adesso comprende anche l'alimentazione, assolutamente, perfetto. Ed è molto congruente anche con quello che fai fuori, tutto un filo conduttore, esatto, perfetto. Quindi mi piacerebbe molto riuscire a realizzare questa cosa. Ti vedi in uno studio, ti vedi in uno studio medico, in una palestra? In uno studio medico più che in una palestra, sì, quello lascerei come mia passione, come il fuori lavoro, insomma. Fuori dal lavoro, ok. Ma ti fa paura il futuro? Perché si parla molto, no, di disoccupazione giovanile, di ragazzi che fanno fatica a trovare lavoro. Tu sei preoccupata per questo? Ne parlate con i tuoi amici? Oppure la scelta di diventare nutrizionista ti rende sicura? Ma a me rende sicura. Cioè, secondo me, se hai degli obiettivi, indipendentemente da quella che sia, quello che sia il momento, no, quello che sia la problematica che c'è adesso, riesci a raggiungerli tranquillamente. Quindi non ti preoccupa il futuro, secondo te troverai un lavoro? Sì, secondo me sì. Brava. Dove ti immagini di vivere fra 10 anni? A Milano, in un altro posto? Spagna. Ibiza, sì. Ibiza, perché? Ci sei stata? Ci dovevo andare quest'estate, però purtroppo è saltato e diciamo è la meta che ho puntato. Quindi non la conosci attraverso le fotografie, social, eccetera. Sì. Però quello è il tuo obiettivo, vivere ad Ibiza? Sì, mare, spiaggia, sole. Cosa fai il sabato sera, Gloria? Allora, il sabato sera dipende. Prima facevo molte più serate con gli amici, andavo a ballare. Adesso mi dedico un po' al riposo, sinceramente. Perché ti stai preparando per le gare? Sì. Poi... E quindi non ti puoi permettere sabato sera di stancarti? Sì. Poi preferisco anche stare un po' tranquilla, nel senso, invece che andare a ballare, piuttosto che... Che si fa tardi, a che ora hai il rientro? Se ce l'hai ancora un orario di rientro? 4 e mezza. Non ce l'hai, praticamente. Possiamo dire che non ce l'hai. Com'è il rapporto con i tuoi genitori da questo punto di vista? Cioè, ti lasciano libera oppure ancora discutete sulle tue scelte? Mi hai detto che condividono la scelta del tuo sport. A scuola vai bene, quindi presumo che non litighiate per questo. No. Ci sono comunque discussioni, non so, sugli orari di rientro, su qualche tuo atteggiamento? Sugli orari di rientro assolutamente no. Cioè, concordo con loro quello che è da farsi a seconda delle varie serate, delle varie occasioni. Quindi su questo no. Qualche mio atteggiamento, diciamo che è un po' un caratterino un po', come dire, piccantino, ecco. Quindi sì. Ti vorrebbero un po' più tranquilla? Sì. Sono molto ansiosa, quindi questa cosa. Forse fai tante cose, insomma, ti vorrebbero come loro? Forse un po' più tranquilla. Ti mandano molti messaggini quando sei fuori o ti lasciano serena? No, mi lasciano serena. Ah, meno male. Come ti informi? L'ultima volta che hai letto un giornale? Un giornale? Bella domanda. Mai? No, forse l'ultima volta che sono andata al parrucchiere. Ok, quindi giornali femminili, suppongo. No, era un quotidiano. Un quotidiano? Proprio un giornale, sì. Ok, ma quindi non li leggi spesso. Come ti informi tu sulle cose che accadono fuori da casa tua? Brutto dirlo, televisione. Televisione, radio... Questi mezzi qui, telefono, anche Facebook. Ok, quindi la rete, diciamo. Sì. Televisione, Rai o Netflix? Televisione. Sei mai stata ad una manifestazione? Sì. Per cosa? Era per piccola manifestazione per l'uso della divisa nella mia scuola. Cioè, avete protestato? Esatto. Spiegamela. Per cercare di non dover indossare la divisa. Perché classica. Siete costretti, tra virgolette, a indossare una divisa che non vi piace? Non è che non ci piace, è un po' scomoda, magari d'inverno, la gonna, i tacchi. L'avete spuntata? No, dobbiamo metterla lo stesso, quindi è stato abbastanza inutile. Tra l'altro da quest'anno tu puoi votare, come tutti i diciottenni naturalmente. Ti interessa la politica o non la segui minimamente? Non la seguo molto, sinceramente. Non ti interessa o non ti piacciono i nostri politici? Non mi piacciono i nostri politici. Chi è il presidente del Consiglio? Passiamo alla prossima domanda. Invece hai una figura di riferimento fuori dalla famiglia, naturalmente, a cui non ti ispiri ma che tu ammiri particolarmente, magari anche una figura femminile? C'è qualcuno che conosci e che dici io vorrei diventare così? Allora, come persona famosa, la Michelle Hunziker. Michelle Hunziker? Sì. Cosa ti piace di lei? Mi piace, poi magari è quello che riesco solo a vedere tramite appunto la televisione, il suo modo di fare, di esprimersi. Come ti sembra? Ti sembra una persona... Mi sembra calorosa come persona. È anche molto sicura di sé, no? Sì, è molto sicura di sé, esatto. Ed è anche molto bella. Finisce qui questo speciale di Radio 24 dedicato al 2 giugno che abbiamo voluto declinare raccontandovi passioni e sogni dei figli ormai lontani di quel 2 giugno. Sono i ragazzi del 99 che quest'anno raccoglieranno i frutti delle conquiste di quella Repubblica e di quella Costituzione figlia della Repubblica che si celebra oggi. Vi ricordiamo che Ragazzi del 99 sarà anche un nuovo programma di Radio 24 che andrà in onda quest'estate. Per oggi è tutto, un saluto da Maria Piera Ceci e un grazie in regia Paolo Corleoni.